la tuta bionda nel tramonto d'or, l'incontrai, le parlai. Mia divina signorina, chiedi per favor, ma la lei io vorrei saper se nata a Roma o a San Rosso. Se ricordo se non nato mio signor, all'usin piccolo, che molto piccolo, dove ogni cosa è assai piccina in verità. Se un porto piccolo, col faro piccolo, persino le case piccoline stanno là. Anche le bestie non danno molestie, perché son tutte non più grosse di così. Nel sentir la felucente descrizione di Aldor, al suo piccolo disposo mio tesor. Sull'istante fulminante nacque la passione, io l'amai, l'adorai. Col diletto il vaporetto senza esitazione, dissi a lei, io vorrei le nozze al suo paese incominciare. E lei rispose, andiamo mio signor, all'usin piccolo, che molto piccolo, dove ogni cosa è assai vicina in verità. C'è un porto piccolo, col faro piccolo, per mille case piccoline stanno là. Anche le bestie non danno molestie, perché sono tutte non più grosse di così. Senza perdere un istante con la bionda corsi al nord, al sin piccolo sognando già l'amor. Al sin piccolo, che alquanto piccolo, quando arrivai tutto osservai per curiosità. È normalissimo, c'è un faro altissimo, e ogni casa è una caserma in verità. Tra le lunghissime piazze vastissime, io mismo arrivo in mezzo a tanta vastità. Solo un piccolo trovato che diceva già mamma, ed era il bimbo che la bionda aveva di già.